叫玛丽。喵，喵喵。叫玛丽，他可乐滴滴。Dimmi tutto, da salvare, da salvare, mi ha fatto vero gaggio. Sì, sì, allora, è tutto. Allora, Marco, i danni che mi dai risultati che siamo venuti. Volevo di gaggio parlare già io. Oh, tu dino, finivo di più. Ciao, ne faccio domani, domani ne faccio di più gaggio. Domani siamo a 40 gradi. Tanto se non ha passato in bocca, se dopo gli rago, ma se lo tu. Ah, così, fermo. Siamo, vabbè, dai. Vabbè, dai, ci sentiamo, io sto facendo cosa al computer. Ciao. Via. Ciao, dai. Manuel, Manuel. Brucia, brucia. E torra. Non è finita ancora.